Lucio Menisco, indimenticato corrispondente dagli Stati Uniti della RAI e attualmente europarlamentare dei Comunisti Italiani, ci riporta in una anomalia tutta italiana in materia di libertà e pluralismo dell'informazione, insomma il conflitto di interessi del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e le violazioni, come dice Menisco, de iure de facto perpetrate in questo campo. Bene, queste violazioni, secondo il Parlamento europeo, potrebbero costituire un rischio grave e persistente dei diritti sanciti dai trattati e dalle direttive dell'Unione europea stessa. A sollevare questo problema in sede comunitaria e in sede di Parlamento europeo sono stati due comunisti non nostalgici, come definisce se stesso, e Giuseppe Di Lello, lo stesso Lucio Menisco, che hanno promosso l'iniziativa parlamentare fin dal giugno del 2003, proprio pochi giorni prima che Berlusconi rivolgesse agli eurodeputati le offese di capò e di turisti della democrazia. Anche questo è un passaggio indimenticato del governo Berlusconi. Bene, in questi ultimi mesi sono state molte le iniziative prese contro la libertà, il pluralismo e l'informazione da Berlusconi in Italia. Basta pensare alla legge Gasparri, il rinvio presidenziale alle Camere, l'inazione sul conflitto di interessi, i casi De Bortolo, Corriere della Sera, insomma veramente una serie di violazioni a dir poco impressionanti. Ma alle iniziative di Menisco e di Di Lello si sono unite anche associazioni come Articolo 21, Reporters sans Frontières, la Federazione Nazionale della Stampa e anche la Federazione Europea dei Giornalisti, insomma una sconfitta di male e di sostanza clamorosa e immeritata, quella dei forzisti e dei loro risentiti alleati, e che prepara la strada a quella definitiva del prossimo 20 e 21 aprile a Strasburgo, dove il Parlamento europeo sancirà una dura condanna dell'Italia in materia di libertà di stampa e di libertà di espressione. Roberto Di Nunzio, reporter associati per Amisnet Radio.